Anche il sindaco Alemanno sta bene, ha detto è inaccettabile che questo bel derby sia stato turbato da violenze da parte di gruppi di teppisti che nulla hanno a che fare con la sana tifoseria calcistica. Faremo domani il bilancio di quello che è accaduto, ma è assurdo che per una partita di calcio, per quanto importante, venga bloccato il traffico di un intero quadrante della città e che poi un ragazzo di 15 anni debba rimanere ferito, eccetera, eccetera. Allora, io leggevo prima molti messaggi, per esempio uno lo ha mandato Walter che faceva un po' di confusione, a parer mio, tra l'importanza della tessera del tifoso, tra il dentro e il fuori, eccetera. La tessera del tifoso è ovvio che è stata concepita perché nulla, cioè per migliorare la situazione all'interno dello stadio, questo è evidente. Però è stato, qual è stato l'errore a parer mio, ma poi correggimi se sbaglio, quella di presentarla come la panacea contro la violenza in generale che circonda il mondo del calcio. Ora, supponiamo che abbia risolto i problemi all'interno, e su questo non ieri, ma insomma in altri casi magari si può discutere, però all'esterno, come dire, ha depotenziato il lavoro delle forze di polizia. Beh, in teoria, la tessera è uno strumento che serve a garantire, con il controllo degli steward, e quindi non affidato alle forze dell'ordine, la sicurezza all'interno degli impianti sportivi. Tutto ciò che accade fuori è questione di ordine pubblico e quindi sono le forze dell'ordine che devono garantire, in quel caso la sicurezza. E dunque la tessera del tifoso non c'entra assolutamente nulla con quello che avviene nelle vie adiacenti, così come quello che avviene negli autogrill. E sono stati spesso, come dire, fortini assaltati dai Certo. tifosi in trasferta e tuttora in qualche caso lo sono ancora. Dunque, le forze dell'ordine dovrebbero presidiare all'interno, diciamo all'esterno degli stadi la sicurezza. All'interno degli stadi invece sono gli steward, tra l'altro il decreto legge che è stato approvato e convertito in legge a fine anno dovrà essere ora attuato dal Ministero affidando nuovi poteri ausiliari agli steward all'interno degli impianti sportivi. Il problema fuori è di ordine pubblico, è inutile starci a girare E troppo basta. intorno. È di ordine pubblico e se ci sono queste forme di criminalità devono essere estirpate, si devono combattere come forme di criminalità che col calcio non c'entrano niente, ma seriamente non c'entrano niente. Certo.